vediamo un po'. Sarà stanova se dici sì, io ci sto. Prendi pure da bere se ti va. Non è un sogno godere. E ti sa, ti ci sta. C'è chi dice quella cosa lì non si fa. Ma io penso che non è così. In realtà tutti assorti a sapere, ma nessuno che comprende più. Grande inganno il potere, meglio godere. Oh, oh, oh, oh, oh, il tuo sapore. Oh, oh, oh, è una strana sensazione favolare. Ancora un po'. Fare notte più di così non si può. Esci fuori dal tempo, resta qui con me. Dentro un sogno diverso. Oh.